361. Lingua di vitella di latte in salsa piccante. Prendete una lingua tutta intera di vitella di latte e lessatela in acqua salata, al che occorreranno circa 2 ore. Fate un battutino di sedano e carota tritato fine. Mettetelo a bollire con olio a buona misura per 5 minuti e lasciatelo da parte. Fate un altro battuto con 2 acciughe salate, lavate e nettate dalla spina, grammi 50 di capperi strizzati dall'aceto, un buon pizzico di prezzemolo, una midolla di pane quanto un uovo, bagnata appena nell'aceto, cipolla quanto una nocciola, meno della metà di uno spicchio d'aglio, e quando il tutto sarà ben tritato, lavoratelo con la lama di un coltello e un gocciolo d'olio per ridurlo unito e pastoso, e poi mescolatelo col precedente battuto di sedano e carota. Per ridurlo liquido, aggiungete altro olio e il sugo di mezzo limone, conditelo col pepe e salatelo se occorre. Questa è la salsa. Spellate la lingua ancora calda, scartate la pappagorgia con suoi ossicini, che è buona mangiata l'essa, e il resto della lingua tagliatelo a fette sottili per coprirle con la descritta salsa e servitela fredda. È un piatto appetitoso, opportuno nei calori estivi quando lo stomaco si sente svogliato.